Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Allora, sabato 21 marzo, se non sbaglio, il 21 marzo, primo giorno di primavera, quindi si respira quest'aria frizzantina anche e due giorni dopo la festa del papà. Io sono andato con mio figlio a festeggiare nella sua scuola materna, mi ha portato, lui ha quasi 6 anni, abbiamo fatto la festicciola tutti insieme, abbiamo giocato, abbiamo cantato insieme il Padre Nostro tutti insieme. Certo. Poi abbiamo fatto le imitazioni dell'elefante, dell'ippopotamo e di tutte queste cose, tacchino. Abbiamo mangiato la torta e per finire un paio di bicchieri di vino anche ai bambini. Il caffè e ammazza caffè anche ai bambini. E invece siamo qui sempre con Daniele Ceva e Leonardo Manera per Avanzi di Manera, questa piccola trasmissione di mezz'ora in cui commentiamo le notizie che restano un po' confinate qua e là, non sulle prime pagine dei giornali, è vero Ceva? Rimangono spesso a fondo pagina, a fondo tutto, spesso vengono buttate nel cestino, anche nel fondo del cestino della carta rimangono. Però questa volta vogliamo cominciare con notizia che era in prima pagina casualmente, quindi andando contro il nostro specifico, ma perché è curiosa, ci sono stati i fatti gravi di Tunisi, ma il giorno prima che succedesse l'attentato, che ci fosse l'attentato su Tunisi, su Libero è uscita questa notizia: panico in centro a Milano, ma è una performance di un'artista svizzera. Praticamente cosa è successo? Questa artista svizzera ha fatto passare nel centro di Milano questa ambulanza con la mezzaluna, come se fosse un'ambulanza araba, un'ambulanza della mezzaluna islamica, esatto. E questa cosa ha immediatamente provocato terrore, insomma, panico in quelli che la vedevano passare, a testimoniare che viviamo in un periodo, cioè, complicato. Condivide questa cosa? La complicanza di questo periodo è testimoniato dal fatto che è una performance artistica, cioè sì. Perché? Non si capisce. Perché dovrebbe, che senso ha come arte questa? La provocazione. È una provocazione per stimolare la paura. Lei sa che l'arte è un linguaggio, quindi bisogna essere a conoscenza degli ultimi linguaggi, ma lei che condivide quello che dice Libero, sì. Dice Libero, ora bisogna stupire con effetti speciali e vanno alla grande gli impacchettamenti di monumenti e perché no gli ideatori di un viaggio su una finta ambulanza islamica per spaventare le persone. Ma quanta paura! Quindi lei condivide questo articolo di Libero e invece non condivide la performance di questa artista svizzera, Ariane Arlotti si chiama. Hai capito? E dal titolo paura, no, non so come, ha un titolo. Chi fosse interessato all'opera cosa fa? Compra l'ambulanza. Se non e deve comprare anche chi la guida, che sarà l'artista stessa. E anche un paio di persone che si spaventano. Certo. Questo è veramente incredibile. Questa è la voce di mio figlio Beniamino. Il chiodo da appenderla in casa che diventa difficile. Ma a Milano, oltre a questo, cosa è successo? Un'altra cosa che è abbastanza strana, un nuovo regolamento comunale. Che cosa dice questo regolamento? Sì, insomma, quindi state attenti a cosa fate con gli insetti, perché questo nuovo regolamento comunale del verde dice appunto che ci sarà una multa da 150 euro per aver schiacciato un insetto. Quindi d'ora in poi chi schiaccia degli insetti o molesta, perché la notizia è guai a molestare, come si fa a molestare un insetto? Devi telefonare a casa, piaci, vai via, sei un'ape scadente, girati, fammi vedere sotto la gonna, non lo so, sotto le... E questo nuovo regolamento prevede una sanzione da 50 euro se date il cibo ai pesci o cogliere i fiori, ad esempio per le margherite, se raccogliete una margherita in un'area verde pubblica, 50 euro di multa. Ma perché bisogna dare la multa se un pesce, se io do del cibo ai pesci? Mi spieghi lei? Ma i pesci, perché poi io mi immagino lei va lì con un panino al prosciutto, lancia il panino al prosciutto. Cosa c'è di male? Ma è velenosissimo il prosciutto per i pesci rossi. Vabbè, ma sarà il pesce che nella sua discrezionalità capirà se mangiare il panino o il prosciutto o no. Perché devo andare io a incidere sul libero arbitrio del pesce? Ma perché non della è più sogliola, libero, della triglia. Il pesce non ce l'ha libero del arbitro. Del branzino. Mangia con la fame atavica, lasci perdere anche il rombo. Non dia da mangiare ai rombi. Nelle fontane pubbliche. Lei sa che il rombo è il pesce più rumoroso, no? E certo. Il rombo. La battuta credo che abbia 100 anni oggi, questa battuta qui. Ma io non l'ho mai sentita. Quindi attenti a cosa fate col verde, con i fiori, con gli insetti. Diciamo un paio di battute sugli insetti, visto che noi vogliamo anche far divertire parecchio. Allora, è primavera. Nella serra in ogni fiore c'è un'orgia. Chi riuscisse a inventare un motel per insetti farebbe milioni. Le è piaciuta questa? Basta, diciamo sei politico. Ho inventato uno spray per gli scarafaggi, non li uccide, ma fa venire loro dei dubbi sul fatto se sono nella casa giusta. Questo è molto divertente. Ne diciamo una anche di Alberto Patrucco, la lega lei, questa di Patrucco, noto comico. Allora, Bruno Vespa, sì. Vespa, un insetto geneticamente modificato che invece di pungere lecca. Questo è il patrullo. Lei sa qual è il pesce più rumoroso? È il rombo, è il rombo. Ci sono sempre problemi. Allora, vediamo cosa ne pensate voi su questa multa per chi schiaccia gli insetti. Vediamo cosa ci avete. Allora, vediamo cosa ci avete risposto a qualche telefonata a caso che abbiamo fatto. Sì. Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. La conosce? No. Noi qui stiamo commentando una notizia per cui il Comune di Milano ha deciso di mettere una multa di 150 euro per chi schiaccia gli insetti. Lei cosa ne pensa? Beh, se non fate la figa con me, no? non ho capito. Cioè, si commenta da solo una notizia del genere, no? È un po' eccessiva, perché poi c'è una multa di 50 euro per chi raccoglie i fiori, 50 euro per chi dà da mangiare ai pesci. Veramente sembra un po' eccessivo, no? Ma come è eccessivo? È paranoide. Secondo lei a chi bisognerebbe dare veramente le multe? A chi bisognerebbe dare le multe? Sì. Lei si diverte a tirarmi i peli dello scroto, ma... No, non mi diverto a tirarli i peli dello scroto, ma siccome lei mi sembra al corrente della situazione, volevo ma da lei certo, qualche insomma, delucidazione in più. Per esempio, la notizia di questi giorni di lupi che avrebbe cercato di favorire il figlio, anche se la cosa è ancora tutta da verificare, lei come la vede? La vedo come Errani che ha favorito il figlio e come gli altri che sanzione che darebbe a Lupi? Lupi si merita quello che si meritano gli altri, se è vero. Certo. Errani è sparito, no, dalla scena politica? Sì, e quindi anche Lupi. E quindi anche Lupi. La ringrazio per la sua opinione, grazie di essere state con noi. Grazie a lei. Buona giornata. Buongiorno. Sì, pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Noi stiamo commentando questa notizia secondo cui il Comune di Milano ha imposto una multa di 150 euro per chi schiaccia gli insetti. Lei cosa ne pensa? Io penso che sia uno scherzo, lei sta facendo uno scherzo. No, è la verità, guardi, è oggi sulla cronaca di Milano. Siccome sono un animalista, fanno bene. Raccogliere una margherita è vietato, 50 euro. Lanciare un po' di pane ai pesci, 50 euro. Non le sembra eccessivo? Sono un animalista, raccogliere le margherite va bene 50 euro, darla da mangiare ai pesci no. Va bene, la ringrazio per la sua... Buongiorno. Allora, questo ci avete risposto gentilmente alle nostre telefonate, noi siamo sempre grati a quelli che ci rispondono. Andiamo avanti con le notizie, questa arriva da today.it, che è proprio un giornale che esce oggi, Today. Esatto. Emergenza Everest, troppi rifiuti sul tetto del mondo, troppi rifiuti e non riescono più a scalare, perché ci sono tutti questi rifiuti che scendono dall'Everest. Soprattutto rifiuti organici, infatti questa associazione degli alpinisti del Nepal che lancia l'allarme e prevede multe salate per chi non torna al campo base dopo la spedizione con almeno 8 kg di rifiuti organici. Quindi se andate sull'Everest, tornate, organizzatevi con dei secchielli per portare i vostri... Se riportate un rombo sull'Everest, poi le lische riportate. Battuta sui rifiuti. Mia madre cucinava così male che la nostra pattumiera aveva l'ulcera. Ah! Mario Zucca. La risata testimonia che era buona. Una di satira. Gli americani non gettano mai via i loro rifiuti, li trasformano in show televisivi. Mi piace questa satira sulla TV. Bello. Oh, ma no, le notizie che noi preferiamo quali sono? Sono quelle sul sesso. Sempre. Noi dobbiamo andare a stimolare i bassi istinti. Lei ceva che, diciamo, consuma poco, per non parlare di me, che non consumo per nulla. Mi trattengo. La notizia è questa: va a letto con la sexy barista, si risveglia senza testicoli. Come è successo? Ma dice, insomma, questo uomo che era un attore di soap opera sarebbe vittima, secondo le indagini, di una gang specializzata nel traffico di organi umani. No, organi umani in generale, ma solitamente va bene, sa che i reni si possono trapiantare. Sì. Sono i testicoli, cosa ne fai? Delle decorazioni palline... per Natale, le palline di Natale. Ma è vera questa notizia? È vera, Beniamino, sì, è vera, sì, è vera. Beniamino, è vera. E allora, visto che la signora che ha asportato questi testicoli era una barista, barista, noi abbiamo qualche battuta sui bar, perché vogliamo sempre essere sul pezzo. Al bar dell'IKEA prendo sempre una coppetta di fragole con la panna, che è l'unica cosa già montata, la panna. E di chi è questo? Di Camillo Canovi, lo conosce? Camillo Canovi non lo conosco. Allora ne diciamo un'altra, che è la sui seguente. Testicoli? No. Sui testicoli? Ah, no, sui bar, barista, eccetera. Ho incontrato mia moglie in un bar, che bella sorpresa, pensavo fosse a casa a badare ai bambini. Questa è mia. Una cosa mi è capitata veramente a me. No, è di questo John Dentiger. Che però descrive un po' la sua situazione. La mia situazione. Ma non vogliamo sapere altro. Va bene, siccome noi non vogliamo incorrere negli errori delle previsioni del tempo, abbiamo una rubrica che è le constatazioni del tempo. Telefoniamo a qualcuno di voi e chiediamo che tempo c'era domenica scorsa. Vediamo cosa ci avete risposto. Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del sole 24 ore. Posso chiederle che tempo c'era domenica scorsa? Dove abita lei? Guardi, non mi ricordo. Lei dove abita? All'Aquila. All'Aquila, quindi una bella città, però di solito c'è un po' freddo. Sì, guardi, se non sbaglio domenica c'era brutto tempo, pioveva. Pioveva. Senta, visto che parliamo con una persona che abita all'Aquila, com'è adesso la situazione della città? È stato un po' ricostruito o è ancora... Guardi, la periferia sì, il centro storico, hanno aperto i bar e quindi sì, i ragazzi vanno la sera, però altri negozi, pochissime... Però insomma i bar sono aperti. Sì, bar sì, anzi. Quindi facciamo un invito che... esatto. A tutti quelli che bevono, anche alcolisti, comunque. No, speriamo di no. Beh, sono... no. A piedi. Bar sono aperti. No. Qual è il suo alcolico preferito? No, io sono astemia, quindi. Ah, e che forma di trasgressione ha? Nessuna, fumo. Ecco, fuma molto, sì. Fuma come un turco, signora. No, come un turco no, però no. Insomma. Dopo aver fatto l'amore. Dopo, prima, durante. Grazie signora. A lei, buonasera. Guidate con prudenza. Avanzi di Manera. La rassegna stampa che non ti aspetti. E perciò bentornati ad Avanti di Manera, questa trasmissione che si rivolge agli abitanti di tutta Italia, compresa la Sicilia, noi vogliamo rivolgere in modo specifico. Saluto anche tutti i miei parenti di Campobello di Licata, essendo io originario di Campobello di Licata. Sì, è il momento perciò, simpatia per schiacciare, per fare l'occhiolino anche al sud. Io Italia, lo faccio, esatto, perché Radio 24 è più ascoltata al nord, mi dicono. Sì. E quindi noi con questa cosa che facciamo sta parlata, faremo tutto questo blocco parlando in questo modo, per essere simpatici verso tutti gli amici della Sicilia, in particolare Campobello di Legata. Ma andiamo invece con questa notizia. I film tristi fanno ingrassare. Perché? Ah, sì? Non lo so. Un'indagine americana ha monitorato il consumo di cibo nei cinema di 7 stati per rilevare che se il protagonista muore si tende a mangiare molto di più durante la visione. Coi film d'azione il pubblico sembra mangiare al ritmo del film, ha detto, quindi velocemente, via, mangiamo. Esatto. Ed è quindi, i film possono stimolare un mangiare emotivo per compensare la tristezza. Quindi se vai a vedere L'albero degli zoccoli al cinema, proprio ti prepari la tavola, 20 portate con calma e ti alzi dal tavolo dopo 6 ore mangiando, insomma. Quelli che guardavano film tristi hanno mangiato tra il 28 e il 55% in più rispetto a chi invece guardava delle commedie. Hai capito. Quindi noi dobbiamo regolarci. Se volete dimagrire non guardate film. Io peso 61 kg, quindi ho sempre guardato film d'azione e molto allegri. Una donna alquanto obesa al ristorante è in dolce attesa? No, sono in attesa del dolce. La vita è così. Esatto, vedi che Beniamino la sa molto più lunga di mia di moglie no. Vuole dimagrire, ecco perché va sempre a cavallo. E i risultati? Il cavallo ha perso 10 kg. Era così grasso che il suo compleanno cadeva il 3, il 4 e il 5 marzo. Ma la cosa che mi ha stupito di più rispetto al cinema cos'è? Che se per esempio tu vai a vedere un film dove c'è il protagonista o uno dei protagonisti che annusano, anche tu cominci ad annusare. I vicini di posto. Sì. Quindi diventa contagioso, appunto, come dice la notizia, come gli sbadigli. Sì, sì. Che sono... Gli sbadigli sicuramente sono contagiosi e anche l'annusare. Ma da cosa deriva questo fatto? I ricercatori ipotizzano che questo sia un comportamento dettato dall'evoluzione, perché quando si vede qualcun altro che annusa vuol dire che c'è qualcosa di importante nell'aria. Sì. E che nonostante l'olfatto sia oggi un senso spesso considerato secondario, ha in realtà un'importanza decisamente non trascurabile, quindi annusiamo. Annusiamoci tutti, annusate il vostro vicino. E se uno ha un'ipertrofia dei turbinati, cioè il naso un po' chiuso? E si chiama Leonardo Manera. No, non ce l'ho più, guardi. Ma sai che anche il sesso è questione di annusamento. È proprio la pelle. Se tu annusi una donna che ha un odore particolarmente erotico, hai subito delle prestazioni. Soprattutto dietro l'orecchio è dove noi percepiamo il profumo, l'odore che insomma identifica. Perché lì c'è un po' di ristagno anche. C'è un po' di ristagno. Sentiamo proprio l'odore del DNA. Del DNA si della persona si con sente la un po' di più l'odore fare. Perché è più difficile arrivare lì, esatto. C'è un po' di ristagno, si sente meno. Vabbè, nel suo caso parliamo sempre di cose gradevoli qui a Radio 24. Abbiamo fatto qualche telefonata per sapere anche quali sono i vostri film preferiti. Vediamo cosa ci avete detto. Pronto? Pronto, buongiorno, qui a Radio 24, la radio del Sole 24 ore, la conosce? No, ma non mi interessa, no, grazie. Le chiediamo solo un'opinione, signora. No, grazie. Non riattacchi, non le vendo niente, giuro. No, ma non mi interessa, ringrazio. Ma non le sto vendendo niente, le chiedo solo un'opinione, signora, su questa notizia, secondo cui i film tristi fanno ingrassare. No, e non li guardo, quelli che non mi piace. Cosa guarda normalmente? Un po' di tutto, ma quelli brutti non li guardo. Qual è il suo genere di film preferito, per esempio? Poco tempo da guardare TV, io preferisco riposarmi a letto senza TV. Ah, la sento un po' amareggiata, signora. Mi stavo riposando, perché? Ah, l'abbiamo svegliata. Vabbè. Va bene, signora. La saluto, ok. Ma, caro Ceva, una delle cose che si verificano di più al cinema qual è? Cosa si fa al cinema? Si va, io ricordo ai miei tempi, quando ero giovincello, io si andava per limonare. Per limonare alla grande. Non è mai successo. Tu allungavi la mano dietro la ragazza e poi... E lei iniziava a limonare con quello di fianco, quello dall'altra parte, esatto. Io ho limonato invece al cinema. Sì. Che fortuna che ha avuto. E pensi che mi è capitato anche di fare altro oltre a limonare? Cioè di guardare il film, guardare il film. Esatto. Invece in Giappone un italiano è stato arrestato per un bacio, era solo un saluto, ha baciato una ragazza sulla fronte, quindi niente di particolarmente invadente, ma è stato invece arrestato per atti osceni in luogo pubblico e per disturbo della quiete. Vedi come sono i giapponesi. Anche in India, ad esempio, c'è questa cosa dove noi abitualmente, quando incontriamo qualche caro amico, lo baciamo sulla guancia. Attenzione, perché dovessi andare in alcuni paesi orientali, è mal costume. E cosa si fa? Bisogna subito andare al sodo. Bisogna andare, sì, sì, certo. Bisogna fare l'amore subito. Petting. Vediamo questa battuta. Ho baciato una ragazza di Bolzano, era bilingue. Questo di Dario Vergassola. Si sarà divertito di più di cui ha sentito la battuta. No, non è vero, c'ha molto ridere. Io sono stato fidanzato anni fa con ragazzi Bolzano, la saluto, si chiamava non lo dico. Sissi, solo il nome. Era bilingue? Sissi. Era un serpente, già Sissi ed era la lingua bifoncuta. E vogliamo finire invece con una notizia bella. La lega lei, Ceva, perché finalmente noi vogliamo sempre terminare con una notizia positiva. Questa di cosa dice? Di cosa parla? Allora, la pagliata. Lei sa cos'è la pagliata? La pagliata è un tipico piatto romano. Torna in tavola perché era stato bloccata qualche tempo fa per questioni della mucca pazza. Quindi via libera da parte dell'Unione Europea dopo ben 14 anni. Applauso alla pagliata. Io adesso posso guardare un film triste dove muore il protagonista e mangiare della gran pagliata. Esatto, piatto tipico a base di carne bovina, torna a tavola. Prima di salutarci con la solita poesia, invece il momento di Daniele Ceva, la rubrica di Daniele Ceva, delle proposte per i nuovi palinsesti. Qual è la sua proposta? Allora, intanto mi faccia la sigla. Le idee di Daniele Ceva. Bene, oggi è una proposta. Le idee di Daniele Ceva. Oggi è il momento delle idee di Daniele Ceva. La proposta non è più televisiva ma radiofonica. Ah, quindi ampliamo il raggio. Ampliamo il raggio d'azione. Lei sa che cos'è la misofonia, caro Manera? No, sembra una cosa veneta. È la misofonia? No, capisci cos'è la misofonia? Esatto. Tutti gli amici dalla Sicilia, le un po' bello delegato. Ecco, lei è un esempio. È la misofonia. Lei è un esempio, insomma. Che è la misofonia. No, capisci la misofonia? Scatenare la misofonia, quello che ha appena fatto Manera, ovvero il fastidio dei rumori. La misofonia? Il fastidio. Fastidio. Da che parte abiti? Di rumori molesti, tipo a lei dà fastidio questo, la gente che le mastica nell'orecchio. Sì, un po' mi dà fastidio. Insomma, fanno dei rumori fastidiosi. La misofonia è il provare il fastidio. Io propongo questa trasmissione per mettere alla prova il vostro livello di misofonia, il vostro livello di sopportazione dei rumori molesti, facendo una trasmissione radiofonica che sono mezz'ora di rumori molesti. Secondo me verrebbe proprio a livello scientifico e medico, verrebbe ascoltata con un interesse. La proponga qui a Sebastiano Barisoni di Radio 24, il vice direttore di Radio 24, e vediamo cosa le dice. Scusate, ma non avete già fatto avanzi di Manera che dava fastidio? Sì, a misofonia. Quindi questa è la mia proposta per oggi. E adesso relax! No, non relax, perché prima abbiamo la poesia, un avanzo di poesia, cioè una poesia non conosciuta alla quale noi vogliamo dare dignità. E si intitola Roma. Rombo. L'amore non esiste. Parte bene. C'è una verità assoluta proprio. L'amore non esiste. Vabbè, adesso, grazie, mi viene già fame. Aspetta di ascoltare un momento. L'amore non esiste. Esiste l'illusione di due anime tese verso l'infinito. Ma l'infinito non è umano. È finito e disarmato, tradito di fronte all'illusione tradita. L'infinito non è umano. L'amore non esiste. È un po' amara questa poesia. Invece noi ci auguriamo che stasera, sabato pomeriggio, poi sabato sera, possiate invece dare corpo al vostro amore avendo dei rapporti soddisfacenti per tutti quelli che ne avranno la possibilità. Non esiste il vostro amore. L'amore non esiste, ma esiste il sesso, che è quello che vi auguriamo di fare. Ringraziamo Daniele Ceva, Valeria Bernardi, il nostro coautore Marco Del Conte, il curatore Guido Scotti e naturalmente Leonardo Manera. Buon sabato, ciao, grazie. Ciao. E buon sabato dal villaggio. Buon fine settimana a tutti.